Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Non so cosa dire, continuano ad arrivare notizie su di loro e però ogni volta c'è qualcosa di singolare che li riguarda. Di chi sto parlando, va bene, lo sentirete dopo i titoli della puntata. Ah, dimenticavo, benvenuti all'ascolto di Möbius. Scoperti 6 nuovi e grandi esopianeti che ruotano in direzione opposta al loro sole. Il fenomeno è rarissimo, ma si può spiegare. Individuato l'unum septium, un elemento che mancava nella tavola di Mendeleev. Il pianto del bebè segue la struttura melodica della lingua madre. Il piccolo apprende i suoni dal grembo della mamma. Il cervello, istruzioni per l'uso, è il titolo di un saggio che racconta la nostra mente. Entrare di persona tra i protagonisti degli affreschi di Giotto è possibile ad Assisi grazie alla realtà virtuale. Potrebbero tornare i dirigibili, molto diversi da quelli che furono al centro di grandi incidenti negli anni 30 del secolo scorso. Come molti di voi probabilmente hanno già sentito altre volte da Möbius, ci capita di parlare con una certa frequenza in questi ultimi tempi di pianeti extrasolari. Negli ultimi anni, insomma, ne sono stati scoperti tantissimi, però c'è sempre un motivo ulteriore per continuare a parlarne. Questa volta la notizia abbastanza singolare. Bene, la commento con Patrizia Caraveo. Buonasera, Patrizia Caraveo. Buonasera. Dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e soprattutto abile divulgatrice. Allora, Caraveo, la notizia qui è che sono stati individuati altri 9 pianeti extrasolari, però 6 di questi hanno una rotazione che è inversa rispetto a quella della loro stella. Vogliamo provare a spiegare questa singolarità prima, perché non dovrebbe essere così, però ogni tanto raramente si incontra questo fenomeno. I pianeti nascono insieme alla loro stella da un disco che si chiama protoplanetario, cioè un disco di gas e di polvere che decide di aggregarsi. E prima si aggrega la parte centrale che diventa una stella se raggiunge certi limiti di massa, eccetera, e poi si forma un disco tutto intorno dal quale noi pensiamo si formino i pianeti. Tipo Saturno, insomma. Sì. Possiamo avere quell'immagine. Più o meno, sì. Più o meno, insomma, tanto per essere tanto un po'... per fissare le idee. Esatto. L'idea fondamentale è che il disco ha una sua rotazione, perché tutto il materiale della galassia ruota, tutto il materiale dell'universo ruota in un certo qual senso, quindi il disco ha una sua riserva di energia rotazionale e quindi è normale che la stella che si formi ruoti, è normale che i pianeti che si formano intorno alla stella ruotino. Allora, l'idea fondamentale è che per minimizzare l'energia di tutto il sistema è molto meglio se tutti i pianeti ruotano nello stesso senso. Quindi i pianeti ruotano, la loro velocità di rotazione intorno al loro asse è tutta nello stesso senso e la velocità di rivoluzione, cioè l'orbita intorno alla stella, vanno tutti nello stesso senso, perché così diciamo è il loro ricordo ancestrale del disco protoplanetario. Certo. Nel sistema solare noi sappiamo che ci sono dei fenomeni che in generale sono delle interazioni gravitazionali tra corpi che adesso noi chiamiamo corpi minori del sistema solare, che possono disturbare violentemente le orbite dei corpi che noi stiamo studiando. Ad esempio le comete che vengono dalle parti esterne lontanissime del sistema solare vengono proprio spinte, ricevono un calcio gravitazionale da altri oggetti che vivono nelle loro vicinanze, la loro orbita viene disturbata violentemente e quindi acquistano un'orbita totalmente diversa, che è quella che le porta a passare vicino al Sole e quindi a sviluppare poi la chioma che noi vediamo, eccetera. Quindi il succo del discorso è: i pianeti intorno alle stelle dovrebbero tutti ruotare nello stesso verso, diciamo così, tranne il caso che abbiano subito degli urti, dei disturbi che sono sempre però ascrivibili a disturbi gravitazionali, che può essere giusto appunto il fatto che due pianeti si sono trovati troppo vicino e si sono disturbati tra di loro. Oppure in alcuni casi si pensa anche che dei sistemi planetari siano stati disturbati dal passaggio di una stella vicino al sistema planetario. Ma insomma ci vuole qualcosa un po' come quando a bocce si deve scompaginare tutto, insomma interviene un fenomeno esterno alla normalità e quindi un pianeta può subire un urto che gli fa cambiare la rotazione. Sì. È proprio questa la base del assolutamente del devono essersi formati tutti in fila, diciamo così, tutti in ordine e dopodiché deve essere intervenuto qualche cosa che ha scompaginato l'ordine completamente, qualche cosa che però noi possiamo appunto facilmente immaginare. Ad esempio pensiamo alle lune di Giove. Giove ha alcune lune, quelle scoperte da Galileo 400 anni fa, i satelliti Medicei, che sono delle lune vere e proprie, nel senso che hanno delle belle orbite ben definite, circolari in un piano, eccetera. Ma poi ha altre decine e decine di lune che si muovono su tutti i piani, che vanno una in un senso, una nell'altro, e fanno una specie di nuvoletta intorno a Giove, sono lune molto piccole e queste sono chiaramente degli asteroidi catturati dalla gravità di Giove, che quindi sono delle aggiunte, qualche cosa in più che nulla a che fare con il processo di formazione vero e proprio del pianeta con i suoi eventuali satelliti. Insomma, fenomeni singolari, rari, però assolutamente spiegabili. Grazie Patrizia Caravè, buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Santo cielo Paola, ma riusciamo a pronunciarlo Septium, è giusto? Sì, anche faccio fatica. Septium, ma il nome è temporaneo per fortuna. Ciao Paola, ci colleghiamo con te via Skype con gli Stati Uniti per parlare di questo nuovo elemento che entra nella tavola di Mendeleev, no? Era l'ultimo elemento mancante ai sette periodi, adesso i sette periodi sono pieni. Avevamo il 116, il 118, ci mancava il 117. Sì, perché questa cosa buffa della tavola di Mendeleev, ricordiamola a tutti, è che non è che è nata tutto ad un botto, si sono scoperti degli elementi che stavano più avanti e più indietro, c'erano dei buchi, no? Esatto, esatto. Invece adesso questi sette periodi sono pieni, poi ci sono delle estensioni alla tavola di Mendeleev e quelle sono ancora da riempire. Ci sono ancora delle cose da riempire. Ecco, ma l'unun septium, che quello che viene dopo è l'unun octium, quello già lo si era trovato, ma esiste veramente come il piombo oppure no? Allora, è 40% più pesante del piombo, però dura solo una frazione di secondo, per cui esiste ma per poco tempo. Probabilmente prima che fosse sintetizzato in questi laboratori non era mai esistito né sulla Terra né nell'universo. Quindi la tavola può contenere delle cose che in natura non ci sono, ma che però possiamo mettere dentro la natura. Esattamente. Per poco però? Cioè, di solito alcuni di questi elementi sono, come si dice, molto instabili, durano poco niente. Sì, in generale tutti gli elementi dopo il bismuto, numero atomico 84, sono instabili, che significa che decadono in tempi più o meno brevi. Brevi quanto? Brevi che vanno dai giorni alla frazione del secondo, come nel caso del nostro, lo chiamo 117. Ecco, unun septium. Chi è che ha scoperto l'unun septium? È un gruppo di ricerca dell'Istituto di Ricerca Nucleare di Dubna in Russia in collaborazione con dei laboratori statunitensi. Una vera avventura è stata. Ah sì, perché? Perché prima hanno prodotto il berchelio, che prende il nome dall'Università di Berkeley, Va bene, e certo. l'hanno prodotto in America, l'hanno purificato, l'hanno spedito in Russia. L'hanno spedito in Russia, tu dici. Ecco, e tra l'altro per problemi di dogane ha fatto il viaggio avanti e indietro 5 volte, il consolo quando porto il parmigiano Perché non volevano farlo passare? dall'Italia. No, non volevano farlo passare. Oh, santo cielo, va bene. E quindi questi 22 milligrammi di berchelio alla fine sono arrivati in Russia e l'hanno bombardato con degli ioni di calcio super accelerati. E il risultato sono stati questi 6 atomi, di cui parliamo di quantità minime, 6 atomi di un unseptium. In realtà, siccome dura una frazione di secondo, non è che lo possiamo pesare, vedere, misurare direttamente. Quello che facciamo, cioè quello che hanno fatto, è misurare le caratteristiche degli elementi che vengono prodotti quando l'unseptium decade, gli elementi più leggeri e particelle elementari. Sì, hanno studiato come si disfa praticamente. Esattamente, dal modo in cui si disfa dicono: ah, questo qua è il famoso elemento 117 che ci mancava. Senti, ma con l'unseptium ci facciamo qualcosa? Oddio, dura qualche frazione di secondo, però. No, le applicazioni pratiche non ci sono. Non le vedo, no. Però ha molte implicazioni a livello della fisica fondamentale. Ci serve per verificare diversi modelli di combinazioni di neutroni e protoni, la struttura dei nuclei in generale, e poi è un passo in avanti per dimostrare l'esistenza della cosiddetta isola di stabilità. Cioè? L'isola di stabilità sarebbe una serie di elementi super pesanti con molti protoni e molti neutroni in un numero ben definito, li chiamiamo i numeri magici, e danno la caratteristica di essere stabili. Per cui si pensa che al di sopra di questi elementi come l'unseptium, l'unoctum e così via, ce ne siano altri che sono super pesanti, ma sono anche stabili, Ah, ho capito. cioè non decadono così in fretta. Quindi è un piccolo passo verso questa isola di stabilità, che dovremo ancora vedere dov'è quest'isola. Sì, esatto, in base a teorie diverse si trova in posizioni diverse, cioè con un diverso numero di protoni o neutroni, però questo è un passo avanti per capire Ok, beh, se insomma, esiste e com'è. poveretto, dura poco, però un suo significato ce l'ha l'unseptium. Sì, speriamo gli cambino nome in fretta. Grazie Paola per questo nuovo elemento. Ciao e buon fine settimana a tutti. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo arrivati al nostro gioco che sarà sull'acqua. In questi mesi si sta sviluppando una grande attenzione al consumo d'acqua, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Sappiamo che è un bene fondamentale e prezioso che nei prossimi decenni potrebbe drammaticamente mancare. Allora diamo un piccolo contributo oggi alla consapevolezza intorno a questo problema. La domanda è: quale delle seguenti tre attività umane consuma più acqua? L'irrigazione dei campi, ci scriverete campi, oppure l'industria, ci scriverete industria. Oppure, terza possibilità, l'uso domestico nelle nostre case, quindi ci scriverete case. Dove? Con il solito SMS al 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Il cervello, istruzioni per l'uso di John Medina, edito da Bollati Boringhieri, e di questo libro vi parlerò fra poco. In collaborazione con IBS.it. Argomento affascinante questo, Chiara Albicocco, Sì, Federico, molto affascinante, non mi riguarda per il momento, ma comunque molto affascinante, Molto sì. affascinante, ed è che cosa può venire fuori quando si è nella pancia della mamma, che cosa si può Dire nella sentire. pancia della mamma e poi che cosa si può esprimere una volta usciti. Una volta usciti. Sì. Ci aiuta in questa impresa la professoressa Viola Machicassia, buonasera. Buonasera. Del Dipartimento di Psicologia dell'Università Milano Bicocca. Senta, ma Buonasera. non c'è un modo, purtroppo, no, vabbè, per fortuna per certi versi, per avere un microfono da dentro, perché capire che cosa si sente dalla pancia della mamma sarebbe Beh, però si fantastico. capisce già parecchio, vero, Parecchio. professoressa? Ma sì, in realtà si sa che tra tutte le caratteristiche che ha il linguaggio parlato, le caratteristiche prosodiche, che sono quelle che hanno a che fare con l'intensità, il ritmo e la melodia del parlato, riescono ad attraversare le barriere dei muscoli e delle ossa e arrivare in utero rimanendo abbastanza inalterate, mentre le caratteristiche fonetiche vengono distorte. Quindi in realtà il feto è esposto a molte informazioni molto rilevanti relative al linguaggio che viene parlato al di fuori della pancia della mamma. Chiara, perché in effetti c'è questo studio dell'università di Würzburg in Germania che appunto ha studiato il vagito dei neonati e ha scoperto che hanno delle cadenze, delle sonorità a seconda di quale sia la lingua madre della madre. E d'altronde noi lo sappiamo che tutte le lingue hanno un loro suono al di là delle parole, no? Non capiamo niente, ma riconosciamo suono, le sonorità di una lingua piuttosto che di un'altra. E abbiamo degli esempi. Abbiamo due esempi. Allora, proviamo a vedere se indovini di che nazionalità è questo vagito. È un vagito e basta. No, è palesemente tedesco, Federico. Ah, sì. Sì, perché senti che buonanotte. È in levare. Ora te ne faccio sentire un altro. Beh, questo in levare sarà sicuramente. Sì. Buonanotte, sì. Francese, Federico. Professoressa, è così, no? Da questo studio sembrerebbe proprio essere così, nel senso che la caratteristica di questi nuovi dati è proprio quella di avere dimostrato, diciamo, per la prima volta che attraverso il pianto, le caratteristiche contorno melodico del pianto, i neonati riproducono praticamente le caratteristiche, il profilo prosodico della loro lingua nativa, quindi della lingua alla quale sono stati esposti mentre erano in utero. Che sono 9 mesi, che sono i primi 9 mesi, quindi in sé non è una cosa sorprendente, ci sta, no? Ma ci sta, no, ci sta molto. Diciamo che le evidenze che fino ad oggi disponibili, e ormai sono parecchie, sono sempre concentrate sul fatto che l'esposizione in utero al linguaggio nativo influenza le capacità percettive di discriminazione percettiva dei neonati, cioè una volta che il bambino nasce dimostra una serie di abilità percettive che sono indicazione del fatto che quello che ha ascoltato in utero lo ha influenzato. Per cui per esempio i neonati a pochi minuti dalla nascita preferiscono la voce materna rispetto alla voce di altre donne, preferiscono frasi pronunciate nella loro lingua nativa rispetto alle stesse frasi pronunciate in altre lingue, preferiscono le caratteristiche prosodiche tipiche della propria lingua nativa, quindi queste cose si sapevano già. Diciamo che questa è un po' una prima evidenza sperimentale che però andrà sicuramente indagata e approfondita e replicata in altri modi prima di poter essere, diciamo, entrare così a far parte delle nostre conoscenze consolidate. Dicevo, la prima evidenza del fatto che questa esposizione in utero influenza le capacità di riconoscimento e di discriminazione percettiva, ma non solo, il bambino utilizza questa informazione per riprodurre le stesse caratteristiche. Diciamo che sono dei dati che aprono moltissimi nuovi orizzonti e sono molto promettenti sicuramente e aprono un nuovo panorama anche alla luce di quelle nuove scoperte, ormai non sono più nuovissime, ma insomma sull'esistenza di un sistema di una serie di neuroni nel nostro cervello che sono famosi come i neuroni specchio, che suggeriscono che noi siamo, diciamo, in grado di riprodurre, mappare immediatamente ciò che ascoltiamo, vediamo e percepiamo attraverso le nostre stesse azioni. Quindi in questo senso sono dei dati molto interessanti e molto potenzialmente molto promettenti. Beh, quindi il vagito, diciamo che è la manifestazione di quello che il bambino sente, i suoni, ma ci sono altre cose che lui può sentire all'interno della placenta, dell'utero? Beh, le informazioni acustiche sono quelle che arrivano in maniera, cioè che vengono maggiormente preservate, che provengono dall'ambiente esterno. Dopodiché in utero il bambino, cioè il feto, diciamo, mostra risposte differenziate a stimoli, a un po' tutte le modalità sensoriali, il gusto, il tatto. L'unica modalità sensoriale sulla quale ci sono un pochino più, diciamo, è più aperta la domanda relativa a quanto l'esperienza possa quanto gli stimoli possono essere percepiti in utero è la modalità visiva. Certo. Che la luce è buio. Che proviene da fuori. Beh, non è proprio buio. No. Però diciamo che fra tutte le informazioni che provengono dall'esterno, quella visiva è quella che viene maggiormente compromessa. Ecco, quindi esattamente quanta informazione visiva sia disponibile al bambino in utero non è... No, non abbiamo ecografie di bambini con un occhio strizzato che guardano dall'ombelico. Però, come tutti sappiamo, abbiamo ecografie in cui il bambino si passa la mano davanti al volto, oltre a mettere in bocca il dito, il pollice, si tocca parti del proprio corpo, quindi sicuramente... Il tatto sicuramente è uno dei sensi sviluppati. Insomma, si fanno un sacco di robe lì dentro. Grazie, professoressa. Grazie. Arrivederci. A presto, buon lavoro. Ciao Chiara, io ti sento fra un po' perché ci parli di Giotto. Sì, entrerò in un affresco di Giotto. Ecco che è banale, in effetti. Sì. Ciao, dopo. Vi leggo due brani da un libro appena uscito, Il cervello, istruzioni per l'uso, scritto da John Medina, biologo molecolare. Il primo brano. Solomon Sirezevsky era un giornalista russo nato nel 1886 che pareva dotato di una capacità mnemonica pressoché illimitata, sia come immagazzinamento sia come richiamo. Gli scienziati che lo studiavano gli sottoponevano una lista di dati da memorizzare, in genere combinazioni di numeri e lettere, e poi verificavano il suo richiamo. Gli bastava avere 3 o 4 secondi per visualizzare, termine usato da lui, ciascun elemento e poi era in grado di ripetere l'elenco alla perfezione, anche se conteneva più di 70 voci e poteva anche ripeterlo al contrario. In un esperimento un ricercatore presentò a Sirezevsky una complessa formula di lettere e numeri contenente circa 30 elementi. Dopo un solo test di richiamo, che Sirezevsky eseguì impeccabilmente, lo sperimentatore mise la lista dei dati in una scatola e attese per 15 anni. Poi la recuperò, rintracciò Sirezevsky e gli chiese di ripetere la formula. Senza alcune esitazioni, il giornalista la riprodusse seduta stante, di nuovo senza errori. La memoria di Sirezevsky, per tutto ciò con cui veniva a contatto, era così netta, così dettagliata, così sconfinata che l'uomo aveva perso la capacità di organizzarla in schemi dotati di significato. Come se vivesse dentro a una tempesta di neve permanente, percepiva gran parte della sua vita come fiocchi accecanti di informazioni sensoriali non correlate fra loro. Sirezevsky non era in grado di dimenticare e questo aveva un effetto deleterio sulle sue funzioni. Il secondo brano. Supponete che dei ricercatori vi mostrino il video di qualcuno che pronuncia la sillaba ga, peraltro abbastanza sgradevole da sentire. Poi, a vostra insaputa, eliminano il sonoro originale e inseriscono come doppiaggio il suono ba. Quando vi chiedono di ascoltare il video a occhi chiusi, sentite il ba molto bene. Ma quando riaprite gli occhi, il vostro cervello di colpo si trova di fronte a un movimento di labbra che dicono ga, mentre le vostre orecchie stanno ancora sentendo il ba. Il cervello non ha la minima idea di come affrontare questa contraddizione. Così escogita una cosa nuova. Se siete come la maggior parte delle persone, quando aprite gli occhi, la cosa che sentite è la sillaba da, che rappresenta il compromesso fatto dal cervello fra ciò che udite e ciò che vedete, la sua necessità di tendere all'integrazione. Ma non c'è bisogno di essere in un laboratorio per sperimentare questo, basta andare al cinema. Gli attori che vediamo parlare tra loro sullo schermo non stanno realmente parlando l'uno all'altra. Le loro voci emanano da altoparlanti opportunamente disposti tutti intorno alla sala, alcuni dietro di noi, altri di fianco, nessuno centrato sulle bocche degli attori. Eppure crediamo che le voci provengano dalle loro bocche. E questo era il secondo brano, però entrambe le vicende hanno a che fare con il nostro cervello, con il funzionamento della nostra mente. Il libro, ve lo ricordo, è Il cervello, istruzioni per l'uso, scritto da John Medina, biologo molecolare, edito da Bollati Boringhieri. È uscito un certo numero di saggi sulla mente e molti, pur essendo interessanti, hanno la caratteristica di essere abbastanza complessi. Questo invece è molto accessibile e descrive tutti gli aspetti fondamentali che riguardano il funzionamento del cervello, le cose che sappiamo, quelle quelle che ci sono ancora oscure sono non poche. Fra quelle che sappiamo, il libro ci parla per esempio della relazione fra stress, apprendimento e memoria. È una relazione forte e diretta, perché le condizioni di stress sembrano proprio agire come una gomma per cancellare un testo scritto a matita, testo che sarebbe appunto il prodotto della nostra mente. Non solo memoria e apprendimento, ma in generale l'attività mentale è aggredita dallo stress. Le preoccupazioni, le paure riducono fortemente questa nostra capacità mentale. È sempre stato così. Se ci immaginiamo gli uomini che vivevano 60.000 anni fa, ci deve venir facile pensare che una delle loro principali preoccupazioni, pensate, era certamente rompersi una gamba. Per loro, dovendo scappare, che ne so, velocemente da un luogo dove si fosse sviluppato un incendio, non devastante, ma insomma qualcosa da cui allontanarsi, bene, questa era un'azione nella quale, alla paura di essere raggiunti dalle fiamme, cosa che però abbiamo pure noi oggi, si aggiungeva senz'altro il timore di rompersi un arto, cosa che invece a noi non passerebbe per la testa, perché una gamba rotta, un braccio rotto oggi si aggiustano. Allora una gamba rotta era l'inizio della fine. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Chiara Albicocco adesso entra negli affreschi di Giotto. Speriamo anche che riesca a venirne fuori. Comunque, vediamo. In questo momento ci troviamo ad Assisi e precisamente nella mostra I colori di Giotto. Sono dentro la scena dell'approvazione della regola di San Francesco. Qui di fronte a me ho Papa Innocenzo III, che è seduto sul suo maestoso trono, e alla sua destra e alla sua sinistra e anche dietro ci sono tutti i vescovi e i prelati. Al cospetto del Papa c'è San Francesco, è inginocchiato, e dietro a lui ci sono gli 11 discepoli francescani, sono anche loro inginocchiati. Ecco, sono letteralmente immersa, mi sto spostando, nella scena del celebre dipinto di Giotto, in cui il frate appunto di Assisi consegna la regola di vita francescana. Il tutto avvenne nel 1210. Posso proprio camminare tra i personaggi della scena, ecco, ora mi avvicino a San Francesco e poi mi avvicino al Papa e posso quasi toccarlo. Dico quasi perché questi personaggi sono virtuali, cioè sono stati ricostruiti in tre dimensioni, proprio grazie al lavoro di alcuni ricercatori del CNR di Roma. Ma ora esco dalla scena e do la parola a Eva Pietroni, che è la responsabile di questo progetto, I colori di Giotto, e che ora ci spiega tutti i segreti della tecnologia digitale. E ora do la parola a Eva Pietroni, la responsabile di questo progetto, I colori di Giotto, che fa rivivere gli affreschi del maestro con i colori originali prima che, insomma, le alterazioni del tempo e anche del terremoto, purtroppo, ne intaccassero l'antico splendore. Buonasera Pietroni. Buonasera. Lei è ricercatrice dell'Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali del CNR di Roma e grazie appunto alle tecnologie e alla scienza avete fatto rivivere questi importanti capolavori. Ne abbiamo visto uno, ma in realtà in mostra ce ne sono altri molto importanti per il nostro patrimonio, sia culturale ovviamente che religioso. Esatto, sì, nell'ambito di questa mostra I colori di Giotto, organizzata dal Comune di Assisi e curata dal professor Basile, e abbiamo realizzato noi del CNR di Roma, diciamo su iniziativa del professor Roberto De Mattei, io assieme al mio collega Francesco Antinucci, due installazioni di realtà virtuale dedicate entrambe alla scena della conferma della regola di Giotto. Siamo partiti da una ricostruzione tridimensionale basata, diciamo, su un'analisi attenta dell'affresco giottesco. Ne abbiamo studiato le proporzioni, la disposizione delle figure, i punti di vista immaginati da Giotto, e abbiamo cercato di riprodurlo nel modo più fedele possibile, diciamo, anche se con delle inevitabili differenze dovute chiaramente ad una resa tridimensionale dello spazio. Abbiamo mappato le geometrie tridimensionali così ottenute. Ecco, cosa significa avete mappato? Voi avevate di fronte a voi l'originale, che cosa avete fatto? Delle misurazioni? Esatto. Dunque, noi abbiamo cercato di studiare nel modo più fedele possibile le forme, le figure umane, le architetture, le abbiamo ricostruite in 3D e poi con la stessa pittura di Giotto, diciamo adeguatamente scomposta e adattata, abbiamo vestito queste geometrie, quindi abbiamo attribuito il colore non diciamo in maniera arbitraria o comunque reinventando dei colori, ma facendo aderire a questi modelli tridimensionali la stessa pittura di Giotto. Quindi questo consente a chi si avvicina ai modelli tridimensionali, alla scena, a chi entra virtualmente in questo spazio, di osservare e riconoscere lo stesso tratto pittorico, lo stesso segno di Giotto stesso, quindi con un effetto sicuramente molto particolare, anche molto spettacolare. Sì, tra l'altro sia l'affresco che la vostra ricostruzione, devo dire molto fedele, ha dei dettagli nei tendaggi, anche nei fregi delle sedie, del trono, veramente molto molto particolare. Immagino che il lavoro dietro sia stato veramente lungo e faticoso. Sì, sì, sì, siamo stati tra l'altro supportati in maniera egregia anche da Al 2000, che è una società di Novara che si occupa di digitalizzazione di opere d'arte. Hanno una tecnologia veramente eccezionale nella resa, nella digitalizzazione insomma di dipinti, di affreschi. Anche loro sono stati partner della mostra, quindi ci hanno fornito queste immagini della scena di Giotto a risoluzione altissima, quindi per noi è stato diciamo facile poi avere il dettaglio necessario per il nostro lavoro, ecco. E quindi diciamo sulla base di questa ricostruzione tridimensionale abbiamo realizzato le due installazioni visibili in mostra. La prima, che ha un impatto più immersivo, più emozionale, in quanto la scena ricostruita in 3D viene proiettata su una superficie molto grande di 5x4 metri circa. Si entra proprio nella stanza, diciamo. Esatto, sì, sì, è stata collocata in una installazione appositamente creata per fare il buio attorno a questa postazione, a questa proiezione, e il visitatore, diciamo, entrando in questo ambiente assiste dapprima ad una animazione della scena stessa, quindi la scena viene drammatizzata, diventa viva in un qualche modo, i personaggi entrano in scena, Francesco e i suoi 11 discepoli entrano in scena, si inginocchiano davanti al Papa, nella, diciamo, chiaramente occupando la stessa posizione nella quale Giotto li ha raffigurati, e quindi c'è un breve dialogo tra Francesco e il Papa, diciamo che rappresenta proprio il momento clou, il momento culminante dell'approvazione della regola. Successivamente appunto i personaggi rimangono nelle rispettive posizioni con delle piccole animazioni, comunque rimangono personaggi vivi, e inizia la parte interattiva. Ed entra in scena lo spettatore, insomma, come ho fatto io all'inizio. Esatto, esattamente, entra in scena lo spettatore, il quale, avvicinandosi alla proiezione in un'area di interazione, si può muovere liberamente, può camminare, e a questo punto un sistema di cattura del movimento ne comincia a tracciare i movimenti, e quindi il software cambia il punto di vista della scena in base a dove l'utente in quel momento si trova, quindi di fatto l'utente diventa una sorta di joystick, sì, virtuale. Senza però utilizzare nessuno strumento tipo joystick, soltanto col movimento, spostandosi nella stanza, riesce a spostarsi nelle varie posizioni e avere appunto i diversi punti di vista, dietro Francesco, dietro al Papa, eccetera, eccetera. Sì. Esattamente, noi abbiamo realizzato negli anni varie installazioni di realtà virtuale dedicate ai beni culturali, a contesti archeologici eccetera, e abbiamo sempre utilizzato interfacce, diciamo, che per quanto potessero essere semplificate ci siamo resi conto che costituivano comunque delle, chiamiamole, barriere soprattutto per le persone meno esperte, meno familiarizzate con la tecnologia, quindi a volte anche usare in maniera semplice un joystick, un mouse o una piccola console può diventare difficile. Non è banale. Non è banale per tutti, e quindi invece in questo senso abbiamo sperimentato per la prima volta proprio quello che di più naturale esiste per l'uomo nell'interagire con il mondo, cioè i propri gesti, i propri movimenti, e questo mette in condizioni tutti di vivere la stessa esperienza con la stessa semplicità, lo stesso spirito di partecipazione. E devo dire anche molto realistico. Tra l'altro i personaggi, i protagonisti del dipinto sono a grandezza naturale, quindi proprio sembra... Sì. Di entrare, sì, nella scena. Sì, esatto. No, avendo a disposizione un dettaglio così alto nella grafica, sia per quanto riguarda i modelli che per quanto riguarda appunto il colore, abbiamo potuto appunto realizzare una proiezione molto grande che sicuramente ha un impatto di grande coinvolgimento. Poi naturalmente a questo aspetto di immersività contribuiscono anche altri elementi come il suono, la musica, il dialogo, il movimento, quindi ecco, non è soltanto uno spettacolo di tipo visivo, ma il visitatore viene in un qualche modo avvolto in questo spazio virtuale. Poi diciamo nell'ambito della stessa mostra abbiamo realizzato un po' come compendio di questa prima installazione anche una seconda postazione, sì. E anch'essa diciamo basata sulla ricostruzione in 3D della scena La conferma della regola, però con un obiettivo più didattico, descrittivo, quindi la prima installazione è per l'emozione, il coinvolgimento emozionale, la seconda installazione invece è per spiegare anche concettualmente e più distesamente ciò che la ricostruzione 3D ha messo in evidenza rispetto a come Giotto concepisce lo spazio e la prospettiva, quindi viene fatto proprio un raffronto tra il 2D e il 3D e viene argomentato laddove la prospettiva di Giotto è ancora ovviamente non scientifica, perché poi comunque la prospettiva verrà teorizzata secondo le sue regole solo durante il Rinascimento, quindi c'è senz'altro un intento di riportare lo spazio alla sua abitabilità, no? Comunque a una dimensione umana, una sua volumetria, una sua tridimensionalità, però senza ancora possedere quelle che sono le regole scientifiche della prospettiva, cosa che invece ovviamente emergono dalla ricostruzione tridimensionale. Quindi attraverso ecco, la percezione e la comprensione delle differenze è anche possibile capire meglio l'arte di Giotto. Infatti penso che per voi è stato emozionante far rivivere una scena di questo tipo immortalata nel XIII secolo. Deve essere una cosa molto emozionante. Sì, devo dire che ci siamo veramente divertiti in questo progetto, sia perché avevamo a che fare con Giotto, con Assisi, con un contesto veramente straordinario, anche poi un gruppo di lavoro che ha funzionato benissimo. Noi diciamo come CNR abbiamo coinvolto poi una serie di soggetti privati, diciamo che ognuno dei quali era un po' una punta di diamante nella sua insomma, ambito di competenza, quindi la società BCA di Roma, Massimiliano Forlani per quanto riguarda la grafica, il laboratorio romano per le riprese video, tutto il supporto comunicativo, il backstage del progetto. Un'equipe veramente eterogenea. Esatto, ci siamo trovati veramente molto bene, quindi ecco, è stato un felice incontro tra mondo della ricerca e mondo anche del privato, ecco, che insomma è una cosa che viene in più occasioni auspicata. Devo dire che in questo caso ha funzionato molto bene. Ecco, quindi per chi si fosse incuriosito, io ricordo che sul nostro sito www.moebiusonline.eu trovano tutti i dettagli della mostra, però io vorrei ricordare il titolo, I colori di Giotto, la Basilica di Assisi tra restauro e restituzione virtuale. È stata inaugurata ad Assisi sabato scorso e però sarà visibile al pubblico fino al 5 di settembre 2010. Grazie davvero Pietroni. Grazie a voi. Vorrei farvi riflettere, adesso che avete ascoltato questo servizio di Chiara Albicocco, su che cosa può significare per il nostro paese una industria che si interessasse di valorizzare in tutti i modi il patrimonio culturale che noi possediamo. Un patrimonio immenso, diversificato come nessun altro al mondo, visto che partiamo dalle culture rupestri di 10.000 anni fa e arriviamo al design contemporaneo. Ricordatevi poi che siamo un paese che possiede archivi documentali di enorme valore. Ecco, partiamo da questi ultimi per entrare nel merito della riflessione che voglio proporvi. Io ho conoscenza, per esempio, di come siano i nostri archivi di Stato, possiedono ricchezze documentali di enorme valore e ho incontrato direttori di questi archivi che mi hanno detto: io non ho i soldi per comprare gli stracci per la polvere. Ora, va bene, cerchiamo di non essere polemici, ci sono tanti problemi, sono anni di crisi, ma gli archivi sono in queste condizioni da decenni, attenzione. Comunque, ciò detto, stiamo forse sostenendo che in un paese avanzato bisogna investire in cultura? Certo, anche questo è assolutamente giusto farlo, ma cerchiamo di essere più veniali. Sapete qual è il potenziale dell'industria culturale nel nostro paese? È stato fatto uno studio molto accurato e recente. 160 miliardi di euro all'anno. Una finanziaria di quelle terribili che arrivano ogni 7-8 anni qui da noi, sono arrivate, speriamo non arrivino più, è di 30 miliardi di euro. Ci siamo capiti allora? No, abbiamo un comparto industriale che potrebbe darci una quota altissima della ricchezza che ogni anno si produce nel nostro paese. Direi che non è il caso di aggiungere altro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La soluzione del quiz. Vi ricordate la domanda? Quali delle tre attività umane che abbiamo elencato consumava più acqua? L'irrigazione dei campi, l'industria, l'uso domestico, cioè in casa? La risposta giusta è la prima, l'agricoltura, che oggi assorbe il 70% dell'acqua, poi l'industria con il 22% e il consumo domestico con l'8%. È per questo che si stanno studiando molte nuove tecniche di coltivazione, ma una nota da tempo avrebbe potuto già essere applicata. Si tratta dell'irrigazione alla radice della pianta, con poche gocce erogate con una certa continuità. Infatti, quando vediamo quei grandi getti che lanciano acqua sui campi ruotando, bene, più del 70% di quell'acqua finisce su zolle calde ed evapora rapidamente senza raggiungere le radici. Out of the windows to watch a roar and a burst of flame near the pink tail fins burned the ship into a flaming inferno. Queste voci e queste colonne sonore roboanti ci arrivano da un servizio radiofonico dell'estate del 1937. Siamo negli Stati Uniti ed è appena caduta una grande tragedia. Il dirigibile Zeppelin ha preso fuoco. È un momento drammatico della storia dei dirigibili, o meglio, dei palloni gonfiati con gas. Una storia che ora vi racconta Maurizio Melis per arrivare fino ad oggi, ma anche iniziando da idee alquanto singolari. Ascoltiamo. Nemmeno per i posteri è sempre facile emettere l'ardua sentenza. Come definire infatti il tentativo del lucchese Vincenzo Lunardi, che nel 1784 in Inghilterra tentò di governare un pallone aerostatico con dei remi? A voi ascoltatori il giudizio. Sta di fatto però che alcune delle più affascinanti avventure tecnologiche hanno attraversato, almeno nelle prime fasi, un'epoca di stravaganza. Sarebbe dovuto passare un secolo tra tentativi goffi e intuizioni in grande anticipo sui tempi prima che nei dintorni di Parigi si potesse incontrare il primo dirigibile in grado di partire e tornare sistematicamente nello stesso punto. Si chiamava La France ed era appunto il 1884. Possiamo scegliere questa come data d'inizio dell'era dei dirigibili. In breve tempo le macchine più leggere dell'aria avrebbero conquistato i cieli. Nel 1900 viene realizzato il primo dirigibile rigido, lo Zeppelin 1, con un'intelaiatura in alluminio su cui era teso un pesante telo reso impermeabile per quanto possibile all'idrogeno contenuto all'interno. Facile da produrre, ma altamente infiammabile. Nel 1911 il dirigibile italiano P2 viene utilizzato per la prima volta in guerra. Nel 1919 iniziano le trasvolate transatlantiche che trasporteranno decine di migliaia di persone per milioni di chilometri da un lato all'altro dell'oceano. Il possesso di un'industria dei dirigibili evoluta diventa uno status symbol nazionale. È una questione di prestigio e di controllo dei cieli. Il più grande di tutti i dirigibili è lo Zeppelin 129, costruito nel 1936 e rimasto insuperato. Lungo 236 metri e con un diametro di 47 per un volume totale di 200.000 metri cubi. È in grado di trasportare 130 persone, incluso l'equipaggio, alla velocità di 135 km orari. Prenderà il nome del presidente della Germania, Hindenburg. L'Hindenburg era stato progettato per essere riempito di elio al posto del più infiammabile idrogeno, ma a quel tempo l'elio era un monopolio degli Stati Uniti e a causa dell'embargo in corso in quegli anni i tedeschi dovettero ripiegare sull'idrogeno, una scelta che si rivelò fatale. Il 14 maggio del 1937, di ritorno da un viaggio transatlantico, l'Hindenburg prese fuoco in fase di atterraggio, sotto gli occhi increduli del pubblico radunato per assistere all'evento. Ma soprattutto mentre la scena veniva ripresa e raccontata per radio in tempo reale dal cronista, la cui voce adesso possiamo riascoltare. A colpire non sono tanto le parole quasi indistinguibili, quanto il tono della voce del narratore, che muta improvvisamente al momento dell'esplosione. Ascoltiamo. Back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from burst into flames. Get it started, get it started. It's crashing, and it's crashing. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. it's burning and bursting into flames and it's falling on the mooring fast and all the folks agree that this is terrible, this is the worst of the worst. La tragedia ha una risonanza mediatica incredibile. Fu così che la fortuna dei giganti più leggeri dell'aria crollò repentinamente e in breve tempo vennero abbandonati. Finita un'epoca, ne inizia un'altra, quella della moderna aeronautica. Siamo nel dopoguerra e l'unica ragione per cui potreste vedere un dirigibile sul carri i cieli è una campagna pubblicitaria. Oppure potrebbe trattarsi di un rarissimo dirigibile turistico. Qualcosa però di recente ha iniziato a muoversi e si è ricominciato a pensare ai dirigibili come mezzi per il trasporto di merci. Più veloci dei camion, capaci di trasportare carichi ingombranti e pesanti con un consumo minimo di combustibile e seguendo la via più breve, i dirigibili costituirebbero una soluzione ideale per il trasporto di vari tipi di merci. Fino a 160 tonnellate alla volta e con la possibilità di prelevare, depositare la merce esattamente dove serve. Perché per far decollare un dirigibile non serve un aeroporto. Per parlarci del futuro dei dirigibili è con noi Nicola Masi, presidente della Associazione Dirigibili Archimede, che trovate facilmente sul web. Buonasera Masi. Buonasera Mavis. Allora, intanto le chiedo, che cosa è cambiato rispetto al passato per cui si pensa di reintrodurre i dirigibili? Qualcuno pensa addirittura massicciamente, per esempio per il trasporto di oggetti pesanti. Beh, quello che è cambiato fortemente è la tecnologia. Per esempio è i materiali per l'involucro. I materiali per l'involucro che negli anni 30 erano tessuti, erano tela ricoperta di uno strato di gomma. Cioè, oggi sono i materiali sintetici, con peso estremamente più contenuto e con caratteristiche meccaniche non paragonabili. Molto, diciamo, più resistente, anche, molto più resistente, anche le armature per così dire. No, anche per la parte armature, per quei dirigibili con armatura, non avremmo più l'alluminio, addirittura il legno come era ai tempi eroici, ma avremmo materiali in fibra di carbonio. Il peso per cavallo di un motore degli anni 30 andava intorno ai 2 kg per cavallo, oggi parliamo di un quarto, forse un terzo. Diciamo. Quindi insomma, dirigibili molto più leggeri, che quindi riescono a parità di volume, di dimensioni, a caricare molto più peso, a trasportare certamente, molto più peso. A caricare molto più peso. Aggiungiamo poi tra le innovazioni l'impatto dell'automazione, che si traduce in un minore personale a bordo. Carico pagato come è il personale, lo faccio diventare carico pagante. Senta, ma le condizioni meteorologiche invece erano l'aspetto forse più critico in assoluto per quanto riguarda i dirigibili. Oggi come siamo messi? Oggi siamo messi abbiamo parlato delle innovazioni della scienza e della tecnologia e una di quelle importanti per i dirigibili è quello che è successo per la meteorologia. Oggi noi capiamo meglio i movimenti dell'atmosfera e abbiamo occhi nello spazio che guardano il pianeta e che ci consentono anche di avere proprio le informazioni in tempo reale su quello che è l'andamento delle perturbazioni. Quindi insomma diciamo che il problema rimane, però oggi abbiamo modo, come dire, di aggirare questo problema. Abbiamo certamente modo di aggirare operando su tutti i livelli, dal livello della costruzione del mezzo, al livello della progettazione delle rotte, al livello poi delle operazioni e quindi della gestione dei voli, diciamo così. Anche perché, insomma, non si può pensare di volare come con gli aerei di linea o 11.000 o 12.000 metri, perché bisognerebbe fare dei dirigibili talmente grandi oppure, come dire, non più in grado di trasportare grandi pesi. Senta, è vero però che i dirigibili possono tutto sommato atterrare e decollare più o meno da qualunque punto? Perché questo è uno dei motivi per cui si pensa che siano molto interessanti come mezzi di trasporto. Certo, certo. All'incirca, diciamo che il dirigibile nella sua operatività normale ha comunque bisogno di basi, ha bisogno di hangar, ha bisogno di piloni di ormeggio, però non dappertutto. Quindi un dirigibile potrebbe per esempio operare da basi temporanee, da basi poco attrezzate, avendo comunque da qualche parte la possibilità di avere un ricovero più importante per operazioni di manutenzione, per esempio, per condizioni climatiche estreme. Va bene, grazie Masi. Prego, ringrazio lei, arrivederci. Beh, insomma, avete capito, in un futuro non troppo lontano potremo forse vedere il cielo riempirsi ancora di dirigibili. Nel caso tutto ciò avvenisse, quando alzerete la testa per osservare i giganti del cielo, occhio ai pali della luce. Yeah. La clessidra, antico strumento per catturare il tempo, oggi non si usa più, quella con la sabbia, ma quella che si disegna piccolina sullo schermo, un'indagine di cui ora vi parla Chiara Albicocco ci dice che è esasperante. Siete davanti al vostro PC? Avete cliccato su una pagina e tentenna ad aprirsi? Ancora peggio, state salvando e facendo il cosiddetto download di un intero programma. Ed è apparsa la clessidra? Ecco, state sbuffando? L'attesa si sta protraendo? Ecco, ora vi state irritando? Bene, sappiate che siete affetti dalla sindrome della clessidra. O meglio, sindrome di Hourglass, visto che la scoperta è stata fatta negli Stati Uniti e la cosa certo non ci stupisce. Per la precisione, si è trattato di un'inchiesta commissionata dalla Intel e svolta da un'importante agenzia americana di sondaggi. Durante questa inchiesta sono stati intervistati 2.135 cittadini statunitensi ed è stato chiesto loro quali fossero le abitudini davanti al PC. Ebbene, ecco i risultati, che non sono così sorprendenti. Infatti i cittadini americani mostrano una diffusa insofferenza verso l'eccessiva lentezza del computer e, secondo il sondaggio, infatti il 66% degli intervistati si definisce stressato dal tempo d'attesa, ma il 23% si dichiara addirittura estremamente esasperato dalla clessidra. E c'è anche un esiguo 4% che attende da 1 a 3 ore davanti al monitor, con un ovvio e comprensibile stress. Però qui non c'è nulla da dire, la sindrome è accertata. Se consideriamo addirittura che negli ultimi anni, con l'avvento dei social network, dello streaming e soprattutto dei portali per scaricare i video, la musica e i giochi, oggi l'utente medio passa molto più tempo davanti al computer e il PC stesso è messo a dura prova, molto di più di quello che era solo 2 anni fa. Ma il fattore che più di ogni altro influenza l'umore dell'utente è l'assoluta impossibilità di fare qualsiasi altra operazione e soprattutto di capire quanto tempo ancora dovrà prolungarsi l'attesa. Il sondaggio si conclude sottolineando che l'americano medio passa 13 minuti al giorno aspettando che il suo computer reagisca, che in un anno insomma sono 3 giorni interi di statica e stressante attesa. Vabbè, insomma, se volete un suggerimento spassionato, mentre state davanti al vostro monitor inerte, magari potete accendere la radio, leggere un libro, mangiare una mela, insomma, diventate multitasking come il vostro processore. Con il ritorno dei dirigibili la nostra puntata si chiude. Torneremo anche noi, prima dei dirigibili, la settimana prossima. Buona serata a tutti e a tutte.